ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini. Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto di Radio 24 in questa mattinata nella quale abbiamo in mente di parlare di un tema tanto importante quanto difficile, declinato ovviamente a nostro modo, al modo di si può fare, però vogliamo parlare di cambiamenti climatici. Cosa si può fare per contrastare il cambiamento climatico? Il pianeta si scalda, va bene, ma non è che quando ci alziamo al mattino ci diciamo oh, devo fare attenzione perché c'è il cambiamento climatico. Oppure stai attento quando esci al cambiamento climatico, non prendere il motorino che c'è il cambiamento climatico. È molto più probabile che ci diciamo, non so, stai attento al traffico, stai attento al Covid. Eppure anche il cambiamento climatico ha sulle nostre vite un grandissimo impatto e lo avrà sicuramente sulla vita dei nostri figli, dei nostri nipoti. Ma non andiamo troppo in là con gli anni, perché comunque parliamo di 2050, al massimo 2100 è quello a cui puntano tutte le stime per contenerlo. Se non lo conteniamo entro il 2100 avremo dei grossi problemi e li cominciamo già a vedere, no? Vediamo queste tempeste tropicali che si abbattono sulle nostre coste, vediamo il freddo fuori stagione, il caldo fuori stagione, la settimana prossima pare che verrà un'ondata di caldo. Questo è un sintomo del cambiamento climatico, che non è il meteo locale, non facciamo i trampiani, non è il meteo locale, se oggi qui fa caldo allora non è il cambiamento climatico, se oggi qui fa freddo, vedete che fa freddo, che problema c'è, non si sta surriscaldando niente. No, è un'altra questione, una questione più ampia che riguarda tutto il pianeta. Dobbiamo fare qualcosa. Che cosa facciamo? Prima cosa direi rendiamoci conto di quello che c'è intorno e quindi vedremo un po' le esperienze di chi vive sulle montagne, le esperienze di chi contrasta il cambiamento climatico sulle coste italiane e poi alla fine cerchiamo di renderci conto di come far entrare questa questione nella nostra vita quotidiana, quindi abbattiamo le emissioni di CO2 nella nostra vita quotidiana, così come abbiamo imparato a fare la raccolta differenziata. Abbiamo imparato a farla benissimo negli ultimi anni, ci sono dei dati molto confortanti: 70% degli imballaggi che sono immessi al consumo in Italia sono raccolti e avviati al recupero. È un grandissimo risultato per un paese che anni fa aveva la spazzatura abbandonata lungo le strade e veniva incendiata. No, ce lo ricordiamo tutti, non è questione di un secolo fa, è questione di qualche anno fa. Allora, dicevo, iniziamo da qualche esperienza sul territorio. Marcello Lunelli è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Laura, a tutti i radioascoltatori. Vicepresidente enologo di Cantine Ferrari, cantine notissime in Italia e nel mondo, e sono state le prime cantine con le quali io ho affrontato questa questione del cambiamento climatico in montagna. No, voi mi avete raccontato all'epoca, ma qualche vinita lì fa, insomma, quando ancora ci si poteva vedere di persona, che cosa accadeva nelle aree dove vengono coltivate le viti da cui poi voi partite per fare i vostri prodotti. Viti che via via potevano essere coltivate sempre più in alto, e questo a causa del cambiamento climatico. Raccontiamo un po' agli ascoltatori la vostra esperienza, perché poi in fondo chi lavora con la terra è chi ha avuto il primo contatto con i cambiamenti climatici. Sì, grazie Laura, era qualche vignetta lì fa e abbiamo continuato su questa strada. Noi siamo in montagna, siamo in Trentino, il Trentino ha oltre il 70% della superficie che sono montagne, e questo è un dato di partenza molto importante. Negli ultimi 20 anni ci siamo accorti che la data di vendemmia delle nostre uve subiva un progressivo anticipo, cioè da metà settembre adesso siamo arrivati a metà agosto, intorno al 20 di agosto. Questo può sembrare un cambiamento poco importante, però è importantissimo per la qualità dell'uva, per i dati analitici, per il ciclo di vegetazione delle viti. E quindi questo ci ha imposto di pensare a lungo termine. Giustamente avete detto voi, non si guarda il tempo di domani mattina. Il global warming è una cosa da qui al 2050 e quindi dobbiamo... Però per un'azienda il 2050 è negli obiettivi, no? Quindi insomma bisogna... non è una data così distante. No, assolutamente no. Se pensiamo che in questi anni stiamo approntando dei nuovi vigneti e i prossimi Ferrari saranno pronti tra 15-18 anni, ecco che la nostra testa è già proiettata al 2050. Beh, il 2050 ci dice che la temperatura media in Trentino crescerà, anche se magari rallentata da tutte queste, diciamo, azioni per ridurre il riscaldamento globale. Ecco, noi per contrastare, per creare le stesse condizioni che nostro nonno Bruno, il signor Giulio Ferrari, che è il nostro fondatore, aveva a inizio secolo, abbiamo deciso, perché è questa la strada, di piantare, di investire in nuovi vigneti a delle altitudini più alte. Cioè contrastiamo il riscaldamento globale terrestre andando a piantare vigneti a 700-800 metri di altitudine, dove 20-30 anni fa era praticamente impossibile pensare ad una viticoltura moderna. Sì, certo, da una parte è l'effetto del cambiamento climatico, poter andare a coltivare lì. Dall'altra, voi dite, attraverso i nostri vigneti, noi andiamo a contrastarlo, nel senso che andiamo a stoccare CO2 nei vigneti. Ma più che a stoccare CO2 nei vigneti, perché il vigneto ha comunque un bilancio positivo per quanto riguarda la CO2, se vediamo solo il vigneto e non il ciclo totale di lavorazione e di vinificazione per poi ottenere il futuro vino. Certo è che non avendo degli strumenti puntuali come azienda per poter contrastare nell'ambiente esterno il riscaldamento globale, noi ci alziamo come altitudine e quindi dai 100 ai 150 metri più in alto contrasteremo in futuro questo aumento di un grado e mezzo che è stimato avvenire nel nostro Trentino. E quindi siamo abbastanza fortunati e questo è quanto stiamo, diciamo, investendo per così ridurre il rischio di un riscaldamento che per una base spumante che ha bisogno di molta acidità nell'uva di perdere le sue caratteristiche, di perdere quella tipicità che fa grande non solo il Ferrari ma anche tutto il Trento DOC, tutto questo comparto della provincia di Trento che ha puntato sulle bollicine di montagna. Senta, voi siete un'azienda che comunque è particolarmente, al di là della questione appunto adesso della coltivazione di salire, diciamo, di altitudine, particolarmente attenta al modo in cui coltivate, no? Siete un'azienda biologica, tutto è coltivato secondo i principi dell'agricoltura biologica ormai da qualche tempo, quindi avete, diciamo, un approccio che ha particolare attenzione all'ambiente. Forse è questa la via un po' per tutti noi, cioè cambiare, rivoluzionare all'interno delle nostre case, dei nostri acquisti, quindi cambiare tutto affinché le emissioni finali siano ridotte, direi. Ma assolutamente sì. Forse non che biologico voglia necessariamente dire che si fanno meno CO2, però se uno ha quella mentalità probabilmente fa attenzione a tutto. No, allora, sul fatto del biologico, lei ha ragione a pensare che magari nel vigneto puntuale nostro in alcuni anni sono necessari per seguire i protocolli dell'agricoltura biologica magari qualche trattamento in più. E quindi una persona dice, abbiamo utilizzato un trattore, abbiamo emesso più CO2 in quel vigneto, ma se guardiamo a livello globale, noi abbiamo tolto tutti i prodotti di sintesi chimica, quindi se pensiamo a magari il nostro trattore che viaggia per più ore nel vigneto del Trentino, noi non utilizziamo prodotti chimici di sintesi che magari in Germania, alla Bayer o alla Monsanto, hanno creato una distribuzione di CO2 veramente molto dannosa per l'ambiente. Quindi non dobbiamo guardare locale, dobbiamo pensare a un mondo che è completamente in collegamento e agire a livello però locale, e quindi mantenere in equilibrio e rispettare maggiormente la natura, secondo noi, è la strada giusta tutti insieme per ridurre questo incremento di CO2 che è stato dimostrato fa male al pianeta. Senta, leggo intanto dei messaggi che arrivano come sempre al 349-238-6666. Uno di questi dice: beh, che cosa cambiano? Si sono adattati, non cambia nulla. Benissimo, è vero, Ferrari si adatta. Però se continuiamo a surriscaldare questo pianeta, che so io, prima o poi potrebbe accadere che ci sia un tornado, una cosa che nonostante tutto si abbatte laddove ci sono quelli buoni che si sono adattati. In realtà tutti dobbiamo cambiare qualcosa, altrimenti poi le conseguenze del riscaldamento globale sono locali. Beh, tutti dobbiamo cambiare, e quel radioascoltatore che dice si sono adattati è vero. Però chi conosce i protocolli dell'agricoltura biologica, che è un'agricoltura preventiva e non curativa, quando non ce n'è di bisogno, noi non facciamo i trattamenti. Mentre in una viticoltura integrata, dove il cadenzamento dei trattamenti con prodotti sistemici è comunque fatto anche se non serve alla pianta, ecco che quando non serve noi non facciamo i trattamenti. Quindi è una agricoltura di precisione, un'agricoltura che tenta di interpretare in maniera locale gli adattamenti, ma soprattutto gli sviluppi del clima, senza sprecare risorse. Le faccio un'ultima domanda che arriva proprio da un altro ascoltatore: se fosse tutto bio non avremmo più i pomodori al market, è vero che rende di meno come resa proprio? Ma sicuramente ci sono, il biologico non è per tutti i territori, non è per tutti i contadini e tutte le zone d'Italia. Perché? Perché bisogna adattare questo protocollo al clima, al terreno, al contesto socio-economico del territorio in cui si vuole applicare. Io non sono un fanatico dell'agricoltura biologica, è una forma mentale. Anche chi è in agricoltura integrata, in agricoltura sostenibile, può assolutamente apportare un contributo locale, ma a livello globale, per migliorare la situazione. La ringrazio molto. Marcello Lunelli, ricordo, vicepresidente enologo di Cantine Ferrari. Buon proseguimento e alla prossima al Vinitaly, in persona. Grazie mille, speriamo proprio in persona. Speriamo passi, grazie. Abbiamo una pausa per il traffico, torniamo tra pochissimo, questa volta andremo nelle Marche. Si può fare. Si può fare. Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Sì, siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo, ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai. Come promesso, andiamo adesso nelle Marche, andiamo specificamente ad Ancona. Vorrei dire a chi ci scrive che ci sono sempre state microglaciazioni e periodi caldi. Sì, senz'altro, non in 100 anni, però ecco, questa è la differenza sostanziale rispetto al millenni che sono trascorsi sicuramente. Dunque, in collegamento con noi da Ancona c'è Michele Polenta, assessore all'ambiente di Ancona. Buongiorno. Buongiorno a tutti. tutti, buongiorno agli ascoltatori. L'amministrazione comunale di Ancona da sempre è stata tra le prime in Italia ad essere particolarmente attenta alla questione del cambiamento climatico, a cominciare già nel 2013 a redigere e approvare un piano di azione per l'energia sostenibile sulla scorta della firma del patto dei sindaci, a redigere un piano di adattamento ai cambiamenti climatici anche per una situazione contingente, no, assessore? Cioè voi avevate un punto particolare della costa in cui si era verificato qualcosa. Sì, esatto. Diciamo che nel 1982 Ancona ha subito un evento catastrofico che ha riguardato tutto un quartiere di Ancona molto popolato, che è il quartiere di Posatora, dove si è verificata una enorme frana. Questa frana che si è riversata chiaramente sulla costa, essendo proprio sopra la costa, appena fuori la zona del centro città, interessando un quartiere molto popolato e anche infrastrutture importanti come delle strade di collegamento alla grande viabilità e alla ferrovia che collega diciamo il nord con Ancona e poi prosegue verso sud. È stato un evento molto molto importante che ha condizionato certo molto anche le attività economiche, ma anche il transito proprio dei passeggeri col treno. È stato una frattura totale in un tratto di costa che ha isolato Ancona per moltissimo tempo dalla grande viabilità e anche dalla diciamo possibilità di cittadini residenti a nord di raggiungere il centro città. Certo, e quindi assessore, da lì siete partiti in sostanza, da lì si è partiti, sì, con dei progetti che andavano a risolvere ovviamente questa questione e anche con la consapevolezza che c'era la necessità di proteggere l'intera costa dall'erosione, no? Quindi non solo quel punto. Assolutamente, e diciamo che questo progetto è importante perché non è un progetto che può essere risolutivo per un intervento su una grande frana che a tutt'oggi viene controllata regolarmente con apparati estremamente tecnici, ma che ha comunque dei micro movimenti. Quindi è impensabile che una frana di questa portata possa avere una risoluzione totale, per cui abbiamo la necessità di mettere in campo dei progetti che permettano di proteggerci da eventuali altri problemi che si potessero creare e che chiaramente, essendo rivolta verso il mare, l'interazione degli eventi meteo-marini potessero in qualche modo non incidere negativamente su questo contesto a livello di erosione marina di questa zona, che chiaramente se viene peggiorato facilita sicuramente un movimento franoso di questa zona. Quindi su questo punto comunque c'è del lavoro. C'è già, ci sono già nello specifico di quel tratto di cui dicevamo prima, ci sono anche dei progetti, ci sono dei finanziamenti che possono arrivare. No, ma la voglio portare sulle altre cose che fate che sono molto interessanti, perché lì ovviamente appunto essendoci dei progetti e anche dei soldi in arrivo, penso che prima o poi insomma si risolverà almeno il tratto che interessa la ferrovia e che riguarda anche poi il porto. Mi interessa molto la parte di lavoro che state compiendo sulla resistenza, cambiamenti climatici attraverso la forestazione e quel progetto PIA poi a cui arriviamo per la prevenzione anche. Ci dia uno spaccato dell'una e dell'altra magari, assessore? Sì, allora praticamente il progetto del Lungomare Nord in grandi linee è un progetto dove interviene il Ministero delle Infrastrutture, RFI, che ha il principale vantaggio in quanto deve tutelare la ferrovia che è costiera e che ha la necessità anche di velocizzare questa tratta. Chiaramente interviene la Regione Marche, l'autorità portuale di sistema, l'ANAS e il Comune di Ancona. Si tratta dell'interramento di una zona prospiciente la frana, utilizzando gli escavi della banchina Marche, che deve essere ampliata la profondità per consentire l'arrivo di grandi navi porta container. Quindi ecco, c'è un beneficio sia in termini ambientali che in termini di risorse, perché chiaramente andremmo ad utilizzare degli escavi piuttosto che portare, e quindi di materiale locale, che vanno a riempire un piede della frana, altrimenti sarebbero necessari portare dei materiali esterni alla nostra zona. Quindi ecco, questa è un'ottimizzazione assoluta. Certo. Questo lungomare diventa uno smart park, quindi è una grossa area che si forma e che serve per contenere questo piede della frana, ma soprattutto avrà anche smart perché avrà un discorso di monitoraggio assoluto, un early warning che servirà per capire istantaneamente quali possono essere eventuali futuri movimenti di questa collina che potrebbe di nuovo creare degli smottamenti. E quindi, come in passato nell'82 è stato estremamente devastante, oggi vogliamo creare un qualcosa che immediatamente possa segnalare, possa allertare la cittadinanza, le ferrovie, le strade di una possibile ulteriore movimento di questa collina, e quindi non creare tutti quei disagi e quei danni che sono stati creati in passato. Perfetto. Quindi, allora, noi no, perché adesso stiamo andando verso il giornale radio, quindi ci fa così molto piacere che ci abbia presentato ampiamente con dettagli questo progetto, che è il primo di contrasto appunto al cambiamento climatico sulle coste italiane, riguarda appunto la città di Ancona. Michele Polenta, l'assessore all'ambiente, buon proseguimento, buona giornata. Grazie mille, un saluto a tutti. Ci sono altre belle iniziative ad Ancona, appunto quella che citavo, la forestazione per mitigare i fenomeni delle ondate di calore, progetto PIA che mette in relazione l'inquinamento atmosferico con i problemi sanitari dei cittadini, ne parleremo sicuramente in un'altra occasione. A tutti voi ricordo di non confondere l'inquinamento però da particolato con le emissioni di CO2, ci torniamo tra pochissimo perché la questione dell'informazione su questi temi è centrale. GR24. Si può fare. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Si può fare. Si può fare. World in my eyes, sono i Depeche Mode, abbiamo un politico, il mondo nei suoi occhi a questo punto, vediamo, ma attraverso i suoi occhi anche la nostra vita. Marco Cappato, buongiorno. Buongiorno a voi. Tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, promotore del Congresso Mondiale per la Libertà di Ricerca, ex parlamentare europeo, anche attivista per Stop Global Warming. Ci siamo sentiti proprio per questo l'ultima volta. È un'iniziativa quella di Stop Global Warming, peraltro si può ancora firmare, no? Sempre sì, aperta. Sul sito. Sul sito. Globalwarming.eu. www.ecoembalaggi.eu per chiedere alla Commissione Europea una normativa che scoraggi il consumo di combustibili fossili, incoraggi il risparmio energetico, l'uso di fonti rinnovabili per combattere per l'appunto il riscaldamento globale e limitare quindi l'aumento della temperatura a 1,5 gradi al 2100. Questo è l'obiettivo, quello è uno degli strumenti possibili. C'è qualcuno che, come al solito, dice in questi casi ma che me frega a me del cambiamento climatico, qui non è che stiamo dicendo ricordati che devi morire, no? Ci frega, lo sappiamo tutti questo. Ci frega ormai, per tanti motivi, anche no, di lavoro, di migrazioni, di sicurezza, ci sono mille motivi per i quali occuparsi di cambiamenti climatici. Ormai la consapevolezza è più diffusa di quello che non era qualche anno fa, perché gli effetti si cominciano a vedere dalle cose più lontane, la barriera corallina che si ritrae o lo scioglimento degli ghiacciai, alle cose invece che impattano sul clima nella vita di tutti i giorni, l'intensificarsi di fenomeni estremi dal punto di vista meteorologico. Sono anche fenomeni che già stanno provocando rifugiati, migrazioni aggiuntive, i cosiddetti profughi climatici, perché devono abbandonare per sempre terre che possono essere o sommerse dalle acque o diventate improvvisamente nel giro di pochi anni non più coltivabili. Quindi gli esperti sono unanimi nel considerarla nel medio e lungo periodo qualcosa di più terribile della stessa pandemia, che pure sta mettendo in ginocchio le nostre società e le nostre economie, per cui sulla gravità e importanza del tema ci sarebbe ormai anche poco da discutere. Il problema sono le soluzioni. E poi anche togliersi questo benaltrismo, no? Adesso noi abbiamo parlato all'inizio di vino e arriva subito quello che dice: sì, però, che so io, per fare il vino si produce di più di CO2 di quanto non sia un camion. La questione non è chi ne fa di più, la questione è tagliarsene tutti di emissioni. Sì, anche perché ormai gli strumenti tecnologici esistono. E allora il dibattito internazionale europeo si concentra sui grandi obiettivi. No, il Parlamento europeo vuole un taglio del 60% delle emissioni entro il 2030, la Commissione dice 55%, non si è ancora trovato un accordo in Europa. Però la cosa più importante è come si arriva a questi obiettivi. Ecco, secondo noi, ed è il senso della campagna, il compito dello Stato, delle istituzioni dell'Europa non è scegliere una o l'altra tecnologia, perché questo è un compito dell'innovazione, della ricerca scientifica, delle imprese. Il compito è soprattutto quello di dire: attenzione, le emissioni di CO2 costeranno sempre di più, le faremo pagare sempre di più, in modo che con il passare degli anni questo tipo di processo produttivo o di, appunto, delle emissioni di CO2 sarà sempre meno conveniente. Quindi stabilendo un prezzo minimo in Europa e alzandolo gradualmente. Dall'altra parte usando le risorse che così si raccoglierebbero per abbassare le tasse, ad esempio sul lavoro, sui redditi più bassi, cioè restituire di fatto alle persone, in termini di compensazione sociale, di riduzione delle imposte, le risorse che invece si raccolgono tassando la CO2. Questo è un meccanismo rispettoso dell'economia di mercato, degli investimenti, cioè non si chiede di abbattere il capitalismo o di realizzare una decrescita, no, si chiede di proseguire uno sviluppo di benessere produttivo, ma che sia fatto riducendo drasticamente le emissioni di CO2. Che è un progetto molto interessante e che, perché diciamo così, soddisfa, no, due esigenze: l'esigenza appunto di ridurre le emissioni e l'altra di dare una compensazione e di aiutare. Oggi tra l'altro leggevo su Sole 24 Ore forse, o non mi ricordo più che giornale, no, non era il Sole, comunque, che anche nel momento della pandemia chi ha un reddito inferiore sta venendo colpito di più perché può comprarsi meno mascherine, banalmente. Quindi c'è una necessità ed è un aiuto indiretto che si può dare in maniera soddisfacente per tutte le parti, direi. Ma, no? Quello che dici è vero anche in termini di cambiamenti climatici, cioè è chiaro che questo è un fenomeno che colpisce tutti, ci sono stati incendi straordinari anche nelle ville in California, nei quartieri più ricchi del mondo, però in media colpisce di più chi non ha le risorse per difendere, anche banalmente per adattare il clima nella sua casa o chi si trova privato di attività fondamentali appunto in agricoltura su determinati terreni che divengono poveri. Quindi in media, come per la pandemia da coronavirus, anche i cambiamenti climatici colpiscono di più chi ha meno strumenti per difendersi. Ecco perché questi sono fenomeni dove non basta lasciare andare le cose per conto proprio, come l'autoregolamentazione, che certe volte è sufficiente ed è fondamentale. Qui l'intervento pubblico è proprio quello, nel caso dei cambiamenti climatici, riconoscere un tema di anche medio-lungo periodo. Spesso la politica è concentrata solo sull'immediato, sulla raccolta del consenso immediato, e questo è un grosso problema. Quindi cercare di guardare lontano e in questo caso di intervenire con i meccanismi della economia, nel pieno rispetto per dell'economia di mercato e del suo funzionamento, per disincentivare in questo modo le emissioni di CO2. Marco Cappato, facciamo una piccola pausa per il traffico, torniamo subito dopo e ci spostiamo un po' più sul fronte della comunicazione, che è un tema che conosce senz'altro benissimo. 824 0024 è il centralino per le vostre telefonate, lo ripeto nel frattempo se volete, a tra poco. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Madre Terra, che è un po' in sofferenza come sappiamo in questo periodo. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Come dicevo prima, il numero verde della radio è sempre a disposizione per gli interventi in voce, se volete commentare anche voi. Stiamo parlando di cambiamenti climatici, siamo in collegamento con Marco Cappato e ci ha raggiunto anche Daniele Moretti, giornalista scientifico, conduttore di Impact su Sky TG24, la prima puntata appena andati in onda, la prossima lunedì. Buongiorno Daniele. Buongiorno. Una bellissima puntata, la prima, ho visto un po', ho dato una sbirciatina alla seconda, ma ovviamente non darò indiscrezioni agli ascoltatori perché devono vederla. E vi siete concentrati molto sul tema della comunicazione proprio, di che cos'è il cambiamento climatico, come funziona, come è andata fino adesso e come invece sarebbe giusto rappresentare le cose. Quello della comunicazione è un tema fondamentale. È un tema fondamentale perché è il tema che presuppone avere delle conoscenze comuni, che poi mettiamo da parte e ci mettiamo a discutere delle cose di cui dobbiamo discutere. Il concetto alla base della prima puntata era un po' questo: non è possibile avere ancora dei dubbi su cose, dubbi non ce ne sono, e allora abbiamo provato a immaginare perché avevamo ancora questi dubbi. Da un lato perché noi come media, un po' di mia colpa, dobbiamo farlo, di questo sono convinto perché tanti anni che me ne occupo, e la fretta di rappresentare bianche o nere alcune cose ci ha forse fatto un po' da cattiva consigliera, Da un lato c'è qualcuno che ha pagato per anni per generare questo dubbio, perché basta mettere solo un piccolo dubbio, la scienza si nutre di dubbio perché è da lì che partono le domande a cui dà risposte, però qualcuno ne approfitta perché vuole ritardare il cambiamento. Dall'altra ci sono delle questioni di percezione. Ora, una volta messe da parte però queste considerazioni, è bene parlare delle soluzioni, ecco perché il sottotitolo del programma che è Soluzioni per una crisi. E quindi si è partiti un po' da questa analisi, bellissima la rappresentazione che avete mandato in onda delle due gruppi contrapposti di scienziati numericamente. Quanti sono? Due che rappresentano il fronte del no e 98 che devono rappresentare il fronte del sì, c'è il cambiamento climatico, perché quello è, siamo un po' abituati a costruire sempre sta tribuna politica, qui chiamo anche Marco Cappato, no? In cui dobbiamo mettere a confronto due opinioni, ma qui non stiamo parlando di opinioni, stiamo parlando di fatti, di dati scientifici. Sì, anche da un punto di vista, come dire, dell'audience, dell'attenzione, è chiaro che avere una discussione tra due parti che litigano, si scontrano, è più apparentemente interessante. Ed è evidente anche che discutere delle soluzioni, quello di cui abbiamo parlato finora, allora aumentiamo il prezzo delle emissioni di CO2, ma allora poi come usiamo questi soldi? È un discorso meno spettacolare, più complesso, cioè si tratta proprio di andare a costruire le soluzioni e le politiche e creare attorno a queste consapevolezza e consenso. Lo scontro è molto più semplice, è molto più facile, però quando questo scontro non è basato su una reale incertezza dei dati di fatto o su reali soluzioni a disposizione, diventa uno spettacolo che si dà in pasto all'opinione pubblica, ma che non serve a fare avanzare le politiche e le soluzioni per governare una questione così complessa come quella dei cambiamenti climatici. Bisogna anche fare in modo, e qui richiamo Daniele Moretti, che le persone non si sentano semplicemente travolte da queste informazioni, cioè non è che devono sentirsi dire guarda che devi morire, come dicevamo prima. È un po' passata l'epoca di una scomoda verità di Al Gore, adesso bisogna proporre anche delle soluzioni contemporaneamente alla rappresentazione del problema. Mi fa piacere che citi proprio una scomoda verità, perché se da un lato il 2007 è stato l'anno in cui quella pellicola ci ha un po' costretto a mettere anche noi giornalisti al centro dell'agenda questo tema che era sulle bocche degli scienziati e invece sui loro testi da molto più tempo, perché poi alla fine uno pensa quando è stato Tokyo e quando è che hanno cominciato a studiare i cambiamenti climatici, va molto indietro nel tempo, ma noi come opinione pubblica ce ne siamo accorti all'epoca. Adesso invece è importante che anche, diciamo, la logica del testimonial, per esempio, sono bellissimi i film di Leonardo DiCaprio, perché basta pensare che Before the Flood ha come testimonial il Papa, Elon Musk, Barack Obama, e uno dice vabbè basta, più o meno dovreste avermi convinto, insomma, coperto l'arco costituzionale, hai preso tutti, e invece no, perché è vero che non c'è più tempo da un certo punto di vista, però è vero che utilizzare la strategia del non si può fare più niente, come ci hanno raccontato alcuni degli scienziati che abbiamo intervistato per queste puntate, allontana dall'attivismo, dalla consapevolezza il pubblico. È più importante dirgli guarda, ci sono delle cose su cui invece dobbiamo discutere. Faccio riferimento a quello che c'era Cappato, che era verissimo. Il dibattito in realtà su alcune questioni è anche aperto. Per esempio sulla rimozione di CO2 dall'atmosfera, che è una delle cose che noi siamo costretti a dover fare, perché non basterà semplicemente ridurre le emissioni, ma dobbiamo anche fermare la deforestazione, riforestare e in più togliere la CO2 in eccesso dall'atmosfera, perché non è che i conti vanno fatti e per arrivare a questo benedetto grado e mezzo qualcosa in più dobbiamo farla. Ecco, c'è una parte di scienziati che dice forse non ne vale la pena perché siamo già pronti ad avere il 100% dei rinnovabili, Mark Jacobson a Stanford, e ci sono altri che invece dicono che al di là della verità sono la maggioranza, no, dobbiamo affinare le nostre tecnologie e investire soldi anche in quella tecnologia perché siamo messi talmente male che invece vale la pena investire. Questo è un dibattito, mi rendo conto che è più complesso, è molto difficile renderlo in termini di slogan perché c'è poco da fare gli slogan qui, se non fatelo, fatelo, sì. In realtà è molto complesso, però noi dobbiamo sforzarci di rendere la complessità quando la complessità c'è. Io sono convinto che invece la verità sia la strada per la consapevolezza. Sì, la verità è anche l'idea che si possa fare, adesso per citare noi come trasmissione, perché se uno ha l'idea che non si può affrontare un certo tema lo lascia cadere, invece bisogna avere l'idea che c'è una discussione aperta ma con delle concrete possibilità poi di realizzare il progetto che abbiamo in mente, perché altrimenti è finita lì. Immagino anche Marco Cappato quando vara questa petizione, ha l'idea di poter raggiungere l'obiettivo, perché altrimenti che cosa la facciamo a fare la petizione? Ma intanto c'è un problema di democrazia enorme, perché abbiamo parlato del dibattito, poi bisogna vedere il dibattito che decisioni produce. Ecco, nelle campagne elettorali, pensiamo alle ultime scadenze elettorali in Italia, nelle varie regioni, eccetera, il tema non entra nel dibattito elettorale, perché le elezioni, dicevo prima, sono uno strumento concentrato sul breve termine, sul consenso immediato. Invece qui c'è da costruire politiche che durino negli anni. Allora, una cosa a mio avviso pessima e anche stupefacente è come ci si sta organizzando in piena pandemia per fare tutto a distanza, per lavorare, per comunicare, per fare la medicina a distanza. La democrazia invece rimane qualcosa che non si può attivare che di persona, per raccogliere firme su referendum, leggi di iniziativa popolare. Ecco, lo strumento che noi abbiamo attivato, quello della iniziativa dei cittadini europei, non è una semplice petizione, ma è l'unico strumento di partecipazione previsto a livello europeo. Quindi andando su stopglobalwarming.eu potete firmare questa iniziativa, che ha un valore formale, bisogna anche lasciare il numero della carta d'identità, uno strumento del genere purtroppo, per esempio, a livello italiano non è ancora messo a disposizione, e il coinvolgimento dei cittadini non solo nella fase dell'informazione e del dibattito, ma anche in quella delle proposte della delle costruzione decisioni, è fondamentale, perché se viene considerato qualcosa di lontano del quale dovrebbero occuparsi i politici, i quali poi non hanno gli strumenti e l'incentivo per farlo, e allora a quel punto noi rischiamo di avere una consapevolezza che è enormemente più grande di qualche anno fa, anche per merito dei film di Greta, degli interventi che si ricordavano prima, però da quella consapevolezza non discende un cambiamento nelle decisioni che vengono prese. Daniele Moretti, a proposito di giovani, voi avete scelto un linguaggio stile americano, direi, no? Di comunicazione, com'è costruita tutta la trasmissione, è veloce e approfondita insieme. Che cosa vi ha portato a scegliere questo e non altre formule? Vabbè, questa è una scelta di pure semplice mestiere, nel senso che l'attenzione al tempo televisivo è per l'esperienza che abbiamo è veramente minima. Tendenzialmente dopo un minuto che una persona sta parlando, la soglia d'attenzione, a meno che non si attivino dei trigger, come si dice, emotivi, emozionali, dei picchi di attenzione, è difficile tenersela, insomma, specialmente quando si prova, come abbiamo detto, a rappresentare una questione complessa. Ma quello che abbiamo scelto di fare è mettere insieme e al lato al progetto On Air un progetto digitale, per cui è vero che quello che mi dice per esempio Elizabeth Colbert, l'autrice del Pulitzer, la stessa estensione è interessantissimo, però in televisione magari il suo estratto durerà un minuto e venti. Però volendo lo si trova tutto. Sul progetto digitale, sul sito c'è l'intervista integrale, e pensare che si possa spiegare in televisione in maniera esaustiva tutto quello che è collegato al cambiamento climatico è addirittura un po' naif, mi viene da dire, mentre invece proprio perché lo sforzo è quello di dare degli strumenti di comprensione, per esempio per attivare quella pressione di, come società civile di cui parlava Cappato prima, avere uno strumento digitale che fa un po' da tesauro di tutte le cose che hai sentito per approfondirle e verificare anche se ho detto cretinate o no, molto semplicemente. Anche se l'hai colto o no, perché a volte nella velocità delle trasmissioni, la vostra ma anche altre, uno non è sicuro di aver capito bene. Il poterlo recuperare e approfondire è importante. Esatto, per esempio perché parliamo di grafici, di numeri, di nomi, è importante dare link esterni, è importante dare una rappresentazione completa e dare la possibilità di avere un portale per cui uno poi la sua idea se la fa, e a quel punto, arrivato dietro a quello che dicevamo prima sulla consapevolezza, perché a me preme molto, di tutti questi scienziati di quei servizi integrali che trovano sul sito, a tutti ho fatto la stessa domanda: ma noi che cos'è che possiamo fare? E tutti mi hanno risposto a vario titolo in varia maniera, ma la prima risposta che mi hanno dato è votare persone che hanno a cuore questo problema e poi creare la pressione per rendere per tenere conto di quello che effettivamente hanno fatto o no. E questo effettivamente non è mai successo. Nel 2016 Trump si è trovato il tema climate change costantemente davanti, ma non è servito assolutamente niente dal punto di vista delle elezioni. Sì, allora, così vi dico per vostra nota che tra quanti ci scrivono ci sono tanti disillusi, buoni propositi, ma poi lo finiamo a pagare noi questo cambiamento, speriamo di no, speriamo in realtà di poter trovare appunto uno strumento tale per cui sia tutto un procedimento win-win per l'ambiente, per noi, per le tasche dei cittadini. Certo, qualche sacrificio da qualcuno lo deve fare, se no se fosse facile l'avremmo già realizzato tutto il cambio. Marco Cappato e Daniele Moretti, grazie per essere stati con noi. Prossima puntata di Impact lunedì prossimo. Complimenti e a risentirci. Grazie a voi. Abbiamo una piccola pausa. Si può fare. Ora! È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it. Si può fare. Si può fare. Se questa notte fosse tutto ciò che ti rimane e da mangiare non avessi neanche un po' di pane, se la natura fosse solo un po' più cattiva e il sole ti esplodesse in faccia appena fa mattina, se gli animali cominciassero ad organizzarsi e lentamente progettassero di sterminarci, se non ci fosse alcun giudizio universale, in quale modo scenderesti il bene dal male? E quando l'ultimo supermercato... Abbiamo già detto che le emissioni arrivano da qualunque attività umana. Sì, l'abbiamo detto molte volte, qualunque attività umana produce emissioni e tutti dobbiamo fare un piccolo sacrificio. C'è poi una attività umana che negli ultimi anni è grandemente cresciuta ed è quella che riguarda tutto il mondo legato ad internet. Direte voi, quale emissioni? Beh, adesso ne parliamo un po' più nel dettaglio con Soprasteria, che è un'azienda, tra l'altro multinazionale, che si occupa di consulenza, servizi digitali, sviluppo di software. Stefania Pompili è il CEO, amministratore delegato di Soprasteria Italia. Buongiorno. Buongiorno a lei. Questo CEO a me tre volte mi mette un po' di ansia. CEO, CEO, amministratore delegato, quello amministratore è. Delegato. Così lo traduciamo e facciamo felici bene tutti. Allora, noi pensiamo sempre a questo mondo così digitale come un mondo anzi asettico, ma in realtà anche lui sporca in una certa misura il pianeta, no? Beh sì, assolutamente sì. Basti pensare che se internet fosse un paese sarebbe il sesto più grande consumatore di elettricità al mondo, quindi assolutamente sì. Assolutamente ecco, sì. E quindi si può, e poi tra l'altro cresce, perché comunque continuiamo a usarlo di più, continuiamo adesso poi purtroppo in questo periodo ancora di più, quindi continuiamo a richiedere energia e l'energia si produce, non è che l'energia arriva da chissà dove e viene tutta rinnovabile o il sole così ce la regala perché per internet la do gratis, insomma. Assolutamente. Ecco. Quindi voi avete deciso di incidere sulle emissioni che come azienda producete, in che modo? Ma noi siamo nei confronti dell'ambiente, abbiamo preso un impegno che parte da molto lontano e che è al centro della nostra strategia. Quindi nel 2004 abbiamo sottoscritto per la prima volta il Patto Mondiale delle Nazioni Unite, e tra gli obiettivi, sappiamo, dell'Agenda 2030 condivisi, la sostenibilità ambientale era uno degli obiettivi al centro. Quindi abbiamo intrapreso dei comportamenti e ci siamo posti degli obiettivi concreti, e nel 2017 siamo stati sostanzialmente la prima azienda tra le prime 50 a livello mondiale in tutti i settori e la prima nel settore tecnologico ad aver raggiunto gli obiettivi di riduzione di emissione di gas serra. Questo naturalmente come? Abbiamo ridotto del 64% le emissioni dovute alle attività dei nostri uffici e dei nostri data center, abbiamo ridotto del 32% in 5 anni le emissioni legate ai viaggi d'affari, e a fine 2019 il 90% dell'energia proveniva da energia rinnovabile. Quindi un impegno concreto che ci ha portato nel 2017 e per 3 anni consecutivi ad essere certificati nelle list del CDP, del Carbon Disclosure Program, e all'inizio 2020 siamo stati certificati a livello platinum tra l'1% delle aziende più eminenti in termini di responsabilità aziendale nella classifica EcoVadis Sustainability. Quindi voi l'avete fatto per scelta comunque, non l'abbiamo c'era un'imposizione sul vostro settore particolare, no. Non c'era nessuna richiesta, è stata una scelta. Una scelta che avete fatto sposare anche a chi lavora con voi, poi in sostanza. Sì, l'abbiamo fatta sposare, abbiamo cercato di sensibilizzare naturalmente tutti i nostri stakeholder, quindi i nostri fornitori e i nostri collaboratori, andando proprio a, in primis l'azienda ha messo in campo tutta una serie di iniziative che naturalmente consistono nel contenimento delle emissioni di gas serra su cose molto, direi anche molto banale. Basti pensare che semplici gesti come svuotare regolarmente la casella di posta, limitare il numero di destinatari in un'email, così come eliminare le cronologie di scambio nelle mail di risposta riducono moltissimo. Lei ci sta aprendo un mondo, cioè io non avevo idea che quando fai rispondi in quel momento lì consumando di più. Sì, sta consumando energia, assolutamente. Gesti semplici, banali. E i WhatsApp possono... cosa fanno? Non apriamo questo. Non capitolo, apriamo il capitolo delle chat. Quindi le chat sono energivore sia da un punto di vista mentale che da un punto di vista poi dopo pratico, vero, concreto. Assolutamente. Anche assolutamente. La chat via mail, insomma, ecco. Sì. Quindi dobbiamo tenere conto che ogni nostro piccolissimo gesto, no? Come lo spegnere le luci quando non necessario, o togliere la lucina rossa. Questo lo possiamo un po' traslare anche nel mondo dell'utilizzo del digitale, degli strumenti di comunicazione e di collaborazione. Quindi ogni piccolo gesto e l'uso, diciamo, parsimonioso anche degli strumenti e delle tecnologie impatta positivamente sulla riduzione dei gas serra. Quindi possiamo fare anche un invito ai grafomani, magari, di fare attenzione, non mandate 400 milioni di mail che poi il server di chi li riceve si appesantisce, poi vi portano in tribunale. Chi li riceve. Esatto, poi io pago la bolletta alta e che faccio? Porto in tribunale chi mi scrive tutte queste mail. Quindi abbiamo detto anche qualche consiglio, appunto, quelli che ci immaginiamo tutti, che sono spegnere lo schermo, spegnere il computer e così via, ma anche queste accortezze nel traslare dati, perché comunque il dato pesa ed è energivoro. Assolutamente. E quando voi proponete a questo punto, visto che voi vi occupate di sviluppo software, pensate magari anche a questo aspetto, quindi lo pensate più leggero rispetto ad altre volte in passato? Sì, cerchiamo innanzitutto di fare di mettere in campo un approccio di riuso, quindi andiamo sostanzialmente a creare una sorta di archivi, di pezzi di codice che possono essere riutilizzati, ESIS, quindi semplifichiamo e cerchiamo di ottimizzare tutto il processo industrializzando, oltre a scegliere quelle tecnologie che in termini di impatto ambientale hanno un minore impatto ambientale e naturalmente utilizza il cloud è sicuramente una modalità che permette di ridurre ed ha un impatto sulla riduzione delle emissioni. Quindi sì, assolutamente, quando facciamo una scelta cerchiamo di valutare concretamente l'impatto sull'ambiente delle nostre soluzioni, oltre che a utilizzare le tecnologie per migliorare e contribuire ad una transizione energetica più veloce, più corretta. Le pongo una domanda di un ascoltatore, quindi server o cloud? Chiede. Io cloud. Lascio cloud, la risposta è cloud. Cloud. Se vogliamo risparmiare energia. Poi, stiamo dando un tema, stiamo rispondendo a questo input energetico dei consumi. Per il resto si riferisce direttamente a voi come a Soprasteria, se vuole dettagli ulteriori. Ma anche quando ci fanno magari quei siti complicatissimi, penso anche proprio per presentarsi, no, un'azienda, anche lì ci stanno costringendo a consumare energia per entrarci, quindi... Sì, potrebbe essere, ma non è detto, non è in assoluto, non c'è una risposta assoluta, bisogna vedere che cosa, come si è costruito quel sito, non è tanto l'uso che se ne fa, ma come si costruisce, quanto energia consuma la costruzione di quel sito. Molto, molto affascinante tutto il tema del consumo dell'informatica. Penso a questi data center che aumentano esponenzialmente quanto nel mondo stanno consumando energia. Lì non credo che si possa avere delle attenzioni, ma fino a un certo punto. C'è anche una questione di sicurezza poi. Sì, assolutamente, c'è un bilanciamento, naturalmente non tutto può essere sostanzialmente, non c'è un'emissione zero assoluta e quindi quello che dobbiamo fare, naturalmente il cloud ci aiuta ad ottimizzare le risorse, no? E da condividerle, perché qual è la logica? Le uso quando ne ho bisogno, quindi non le prendo a prescindere soltanto per gestire dei momenti di picco di elaborazione, no? Quindi questo permette di ottimizzare le risorse. L'emissione zero in assoluta nell'attività produttiva naturalmente è qualcosa che non è un target, un obiettivo raggiungibile, e quindi le aziende devono porsi l'obiettivo di compensare in altro modo. E una delle modalità che noi stiamo mettendo in campo è quello di favorire dei progetti di rimboschimento e dove possibile utilizziamo delle tecnologie di cattura del carbonio. Quindi non tutto può essere, cioè non possiamo abbattuto, pensare, qualche cosa può essere invece compensato. Può essere compensato, e questo deve essere il principio che deve guidare tutte le organizzazioni che si pongono un obiettivo di riduzione ambizioso. Noi poi ce lo siamo posti ancora più ambizioso, perché mentre il Covid minaccia di ritardare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili delle Nazioni Unite, noi ancora una volta ci siamo mobilitati quest'anno come molti attori, siamo stati ulteriormente firmatari della dichiarazione del Global Compact delle Nazioni Unite dell'iniziativa Science Based Target, invitando tutti i governi e le aziende a limitare l'aumento del riscaldamento globale di 1,5 gradi. Bravi. E ci siamo reimpegnati, abbiamo detto che alziamo l'asticella sulla base degli obiettivi ottenuti in anticipo di 22 anni rispetto al 2000, certo. Sì, al 2050. Noi nel 2028 ci siamo prevedete dati l'obiettivo di zero emissioni. Che è un Stefania Pompili, abbiamo un sacco di domande dagli ascoltatori per lei, quindi lei torni a trovarci, torni. Va bene, io torno. C'è di tutto, le chiedono qualunque cosa, quindi... È già ingaggiata. Stefania Pompili, l'amministratore delegato, o se volete CEO, CEO di Soprasteria Italia, grazie, abbiamo la viabilità. Torniamo con Federico Taddia, come ogni sabato. Si può fare. Oh yeah. Si può fare. si può fare. Ed eccoci qua con la nuova puntata di Terra in Vista, c'è Federico Taddia. Terra in Vista, la sostenibilità spiegata a mio figlio. Come un albero che vive in mezzo agli alberi, mi sento quando giro per il mondo. Cerco di far sì che il vento non mi butti giù e di affondare le mie radici nel profondo. Prendo il sole in faccia per far sì che le mie foglie siano ben appiccicate lungo questi rami. Ospito tra le mie braccia nidi di uccellini e do rifugio nel mio fusto a molti sciami. Proprio come un albero mi spoglio e mi rivesto a seconda se c'è freddo o c'è calore. Dentro la genetica. Federico, buongiorno, bentornato. Buongiorno, eccoci qua. Mitigazione, hai scelto un bel tema per questa puntata. Eh sì, insomma, stiamo cercando di far capire alle ragazze e ragazzi le parole difficili, no, legate alla sostenibilità. E mitigazione è una di queste parole che è stata pronunciata anche nel corso della tua puntata dedicata al cambiamento climatico, no? Perché è una parola che ha tanti significati. Adattamento e mitigazione, sì, sempre vanno in coppia e ce li confondiamo alla fine. Ed è insomma un po' la nostra speranza, poi, no, la mitigazione, quando si parla, ma forse siamo ormai a un punto di non ritorno, lo abbiamo toccato. Beh, insomma, la mitigazione ci dà ancora invece qualche possibilità. Tre numeri per inquadrare questa Vai. Parola. La prima è 23% e 30%, che è la CO2 assorbita rispettivamente dagli oceani e dalle foreste, quindi 23 gli oceani e 30 le foreste. Ciò significa che circa la metà di ciò che noi immettiamo in atmosfera rimane lì, e questo ha determinato il riscaldamento globale. Il secondo numero che ti voglio dare è una data, ed è 1750, che insomma gli scienziati lo dicono che prima di quell'anno le emissioni di CO2 derivanti dalla combustione dei combustibili fossili erano quasi nulle. Eh sì, insomma è passato un sacco di tempo, però c'è stato un punto anche lì di partenza, no? Una linea di demarcazione. L'ultimo numero che ti voglio dare è 60 milioni, che sono gli alberi che lo scienziato Stefano Mancuso ha detto che andrebbero piantati nel nostro paese per contrastare il cambiamento climatico, in pratica uno per ogni italiano. Tu hai piantato un albero? Quest'anno tre, caro mio. Bravo, ok, vedi. E tu? Sì, anch'io. Adesso quest'anno non li ho contati, però io ogni anno almeno un alberino lo conto, e non perché lo pianto, non perché me l'abbia detto Mancuso. Il dottore, neanche Mancuso. Ma come sempre abbiamo un'esperta a cui fare tre domande. L'esperto di oggi, a proposito di alberi, uno che ci capisce veramente tanto, è Giorgio Vacchiano, che è ricercatore in gestione e pianificazione forestale presso la Statale di Milano ed è uno dei massimi esperti di boschi e foreste in Italia. Ciao Giorgio, benvenuto. Ciao, grazie, buongiorno a tutti. Allora, la prima domanda è quasi ovvia. Cosa vuol dire mitigazione? Il nostro pianeta si sta scaldando troppo, lo sappiamo. Mitigazione vuol dire darsi da fare per eliminare le cause del problema. Le cause del problema sono i gas a effetto serra, l'anidride carbonica e gli altri che continuamente immettiamo proprio dal 1750 nell'aria, come hai detto tu. Ci sono due modi quindi per eliminarli: smettere di emetterli oppure provare a riassorbirli. Eh beh, ha detto poco. Provare a riassorbirli, basta un albero, piantare un albero per mitigare? Beh certo, gli alberi sono delle macchine meravigliose per assorbire la CO2. Grazie alla fotosintesi praticamente la trasformano in legno, come una magia. Se voi avete un oggetto in legno vicino a voi e lo guardate, pensate che praticamente è fatto di aria, perché quella materia che lo compone prima era nella nostra atmosfera. Però un albero può assorbire 10, 20, 30 kg di CO2 all'anno se sta bene. Questo significa che per riassorbire tutte le emissioni di un cittadino medio del nostro paese bisognerebbe piantarne circa 100, 200, 300. Quindi è chiaro che in realtà se tutti piantassero così tanti alberi in Italia non ci sarebbe abbastanza spazio, quindi non possono fare tutto da soli. Guarda, ti faccio una domanda 2.bis, prima della terza. Visto che appunto tu quotidianamente sei nei boschi, nelle foreste italiane, come stanno e come rispondono appunto al cambiamento climatico i nostri boschi e le nostre foreste? Ecco, le foreste, quelle naturali che già abbiamo, sono grandi assorbitori di CO2. Diciamo che ne assorbono circa il 10% in questo momento, quindi è come se stessimo facendo una partita di calcio, perdiamo 10-0 e facciamo un gol. Certo, siamo contenti, però l'ideale sarebbe non subire quei 10 che abbiamo già subito. Per fare quel gol gli alberi devono stare bene. In Italia le foreste stanno aumentando, ma sono messe a rischio proprio dagli effetti di questi cambiamenti climatici, gli incendi, la siccità, le tempeste di vento. Per fortuna ci sono delle persone, si chiamano i dottori forestali, che piano piano stanno imparando a prendersi cura dei boschi e metterli al riparo da questi eventi, che è una cosa importantissima. Ma Vai, vado vai, con la terza vai. Domanda. Abbiamo un sacco di domande sugli alberi, ci piace un sacco l'argomento. Sì, infatti qua potremmo aprire una puntata speciale appunto di Terra in Vista solo sugli alberi. E, no, poi magari torniamo sugli alberi, però adesso devo chiedertelo. Cosa possono fare le ragazze e i ragazzi che ci stanno ascoltando appunto per contribuire alla mitigazione oltre a piantare gli alberi? Ci sono piccoli gesti che hanno qualche effetto reale? Allora, io vi propongo quattro possibilità. La prima sono proprio le cose piccole che possiamo fare tutti i giorni, che rappresentano un pochino l'allenamento, se vogliamo continuare con la metafora della partita di pallone. Cercare di risparmiare energia in casa, cercare di viaggiare poco, il meno possibile in macchina, andare a piedi, andare in bicicletta, tutte cose che possono far sì di evitare di produrre tanta CO2, in modo che gli alberi non devono poi fare troppa fatica per riassorbirla. Queste, come dici tu, sono cose piccole, servono per allenarsi, poi passare allo step 2, alle cose grandi. Intanto fare un pochino gli investigatori. Per esempio, un terzo, il 30% di tutte le emissioni che noi produciamo sono causate dal cibo, dalla filiera alimentare. Allora, quando andiamo a comprare qualcosa o quando i nostri genitori comprano qualcosa, proviamo a fare gli investigatori, cerchiamo di capire da dove viene, quanto distante è stato prodotto, quanto territorio ha percorso per arrivare lì al supermercato, al negozio dove lo compriamo. Meno è meglio, eh. Certo. Terza cosa, chiedere che i grandi, che i nostri amministratori, che chi ci governa, facciano invece le cose grandi di cui abbiamo bisogno, soprattutto passare all'energia rinnovabile. Basta con questo petrolio, con questo carbone, anche col gas naturale, bisogna passare al solare, all'eolico, all'idroelettrico, anche in parte all'energia ricavata dal legno, che anche ci aiuta in questa cosa, e questa cosa bisogna chiederla a gran voce. E poi, diventando grandi, si possono fare tantissime cose per lavorare alla mitigazione. Se vi piace capire come costruire le case, potete studiare come costruirle in modo da consumare meno energia, pianificare le città in modo che la gente, andando in giro, emetta meno CO2, usi meno la macchina, oppure studiare un'economia che valorizzi i beni comuni, le foreste, affinché tutti ce ne possiamo prendere cura. Tutti i mestieri possono lavorare per la mitigazione ed è una sfida veramente bella. Ringraziamo Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e pianificazione forestale presso la Statale di Milano, per averci portato all'interno della mitigazione. Ciao Giorgio. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Terra in Vista. La sostenibilità spiegata a mio figlio. In collaborazione con Eni. Insieme abbiamo un'altra energia. E quindi siamo in conclusione di questa puntata di Si può fare, per la quale ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Michele Michelazzo, l'autore, Gianmarco Ferlonato in regia. Federico, forse ce la fai a dire il titolo del libro che ti hai riportato? Ah sì, perché è bellissimo, Pinguini all'equatore, perché tutto ciò che senti sul clima è vero, perché non tutto ciò che senti sul clima è vero, si parla di fake news. Serena Giacomini, Luca Perri, De Agostini, è veramente divertente e pieno di informazioni ricche e ben spiegate. Grazie a Federico Taddia e Pinguini all'Equatore. Ci ritroviamo domani alle 8.30 da Laura Bettini. Buon ascolto. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.